Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto in Giovanni al capitolo 12, sono parole di Gesù, quelle che sto per leggervi, quindi prestate la massima attenzione, perché sono parole del figliolo di Dio che è disceso dal cielo, mandato dal Padre per essere il Salvatore del mondo. Leggerò alcune parole che Gesù quindi proferì. Chi mi respinge e non accetta le mie parole ha chi lo giudica, la parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che devo dire, di che devo ragionare. Ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette. In queste parole vorrei sottolineare queste, in particolare, io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che devo dire e di che devo ragionare. Ora, quando leggiamo Gesù disse, dobbiamo sempre tenere presente che quelle parole che lui proferì, le proferì per ordine di Dio, perché Gesù lo ha detto chiaramente, il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che devo dire e di che devo ragionare. Voi sapete che Gesù Cristo è chiamato anche il Santo Servitore di Dio, perché Gesù Cristo ubbidì al Padre. Quindi, vi stavo dicendo che quando leggiamo Gesù disse, dobbiamo tenere presente che quelle parole sono parole dell'Iddio vivente e vero. Perché Gesù ha detto, non ho parlato di mio. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette. Ed io in questa mia predicazione voglio partire da delle parole che Gesù proferì contro Gerusalemme, la città del grande re. Gerusalemme, dove peraltro lui, Gesù, fu ucciso dai giudei, perché vi ricordo che Gesù è stato ucciso dai giudei. Allora, voglio leggere da Luca al capitolo 21, leggerò dal versetto 20 al versetto 24. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggono ai monti e quelli che sono nella città se ne partano e quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempite. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà gran distretta nel paese ed ira su questo popolo. E cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Ora, Queste parole di Gesù fanno parte di un discorso che sostanzialmente fu la risposta che Gesù diede ai suoi discepoli. È chiamato il discorso profetico di Gesù. Allora, in Matteo leggiamo questo, che come Gesù usciva dal Tempio, se ne andava, i suoi discepoli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, le vedete tutte queste cose? Io vi dico, in verità non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. E stando egli sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Quindi queste parole di Gesù appunto fanno parte della risposta che poi Gesù diede ai suoi discepoli. Per tornare al capitolo 21 di Luca leggiamo, e facendo alcuni notare come il Tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati, egli disse, quante a queste cose che voi contemplate, verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra, che non sia diroccata. Ed essi gli domandarono, maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui queste cose staranno per succedere? Vedete, praticamente è confermato che queste parole, diciamo, contro Gerusalemme, con cui Gesù predisse la distruzione di Gerusalemme, o meglio, la vendetta di Dio su Gerusalemme, fanno parte appunto di questa risposta che Gesù diede ai suoi discepoli. Per quanto riguarda queste parole, vorrei aggiungere, cioè per la predizione contro Gerusalemme, vorrei aggiungere delle altre parole di Gesù che appunto concernono la distruzione di Gerusalemme che egli predisse. Allora, al capitolo 19, leggiamo quanto segue di Luca, capitolo 19 di Luca, a partire dal versetto 41, leggiamo quanto segue. E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su lei, dicendo, oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quello che è per la tua pace, ma ora è nascosto agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte e atterreranno te e i tuoi figlioli dentro di te e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Notate la ragione, perché Gesù ha spiegato la ragione, perché tu, parlando a Gerusalemme, non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Allora, queste parole che Gesù disse nel predire la distruzione di Gerusalemme, intanto ci confermano che Dio è un vendicatore. Sì, Dio è un vendicatore e Dio era un vendicatore anche per Gesù. Ora Gesù, il figlio di Dio, conosceva il Padre suo. Ebbene, Gesù sapeva che il Padre suo era un vendicatore. D'altronde, le scritture profetiche o gli scritti sacri testimoniano di questo. La stessa legge ci dice che Dio è un vendicatore. Gesù conosceva la legge, credeva nella legge, perché la legge di Mosè è parola di Dio. I profeti, i libri dei profeti, attestano che Dio è un vendicatore. E Gesù credeva nelle parole dei profeti. I salmi attestavano e attestano che Dio è un vendicatore. E Gesù credeva anche nei salmi, perché la legge, i salmi e i profeti sono parola di Dio. Gesù considerava la legge, i salmi e i profeti parola di Dio, perché lo sono. Ogni scrittura è ispirata da Dio. Gesù, sapete, ha citato tante volte versetti, appunto, delle scritture. Ora, se Gesù credeva che l'Iddio e Padre suo era ed è un vendicatore, perché ciò è quello che attesta la scrittura, perché noi dovremmo pensare che sotto la grazia il Dio non sia più un vendicatore? C'è qualche ragione? No, non c'è alcuna ragione per cui noi dovremmo, diciamo, pensare che Dio ora non sia più un vendicatore. Perché? Perché Gesù ce lo ha confermato e gli apostoli ce l'hanno confermato. Ora, queste parole, come vi ho detto, ci dicono che Gesù predisse la vendetta di Dio su Gerusalemme. Infatti, vedete cosa dice: quelli sono giorni di vendetta, li ha chiamati giorni di vendetta. Perché? Perché in quei giorni il Dio esercitò la sua vendetta su Gerusalemme. D'altronde, il Dio ha detto: a me appartiene la vendetta. A lui appartiene la vendetta, non appartiene all'uomo. Infatti noi siamo chiamati a non fare le nostre vendette. Siamo tentati a farlo, naturalmente, ma ci dobbiamo naturalmente controllare al fine di non fare le nostre vendette. Dobbiamo cedere il posto all'ira di Dio, perché Dio ha detto: a me la vendetta. Dunque, facciamo sì che sia Dio, perché Dio l'ha stabilito, a farci, a vendicarci, perché Dio ci vendica. Il male che ci viene fatto, ricordatevi, il male che ci viene fatto, il Dio lo vendicherà, perché Dio è un vendicatore. Non mi stancherò mai di proclamarlo, di gridarlo ai quattro venti, perché è la verità. So bene che molti rigettano la verità, si dicono cristiani, ma la verità la rigettano. Vanno dietro le favole, sì, dietro le favole ci vanno, dietro la verità no, ma dietro le favole sì. Basta che qualcuno gli dica che il Dio non è un vendicatore, subito amen, amen, amen. Quanti amen che si sentono alle tante menzogne che vengono dette da dietro i pulpiti, da uomini che non conoscono le scritture, neppure la potenza di Dio, uomini che non sono chiamati da Dio a predicare e a insegnare. Ciarlatani, seduttori di menti, gente che non sa discernere la destra dalla sinistra, un elefante da un moscerino, per dire, sono persone che non capiscono niente, veramente, non capiscono niente, dicono delle cose, così assurde che uno si meraviglia che ci sia gente che gli dica amen. Cioè, è vero che queste persone dicono ci voleva un amen o fanno il segno con la mano sulle orecchie per fare capire qui manca qualche amen, ditelo. Ma, cioè, voglio dire, ma come si fa? Come si fa a dire amen alle menzogne? Non si deve dire amen alle menzogne, si deve dire amen alla verità, perché amen significa così sia. Evidentemente molti non sanno neppure cosa significa amen. Amen significa così sia. E si deve dire quando viene proclamata la verità di Dio. Ma quando vengono proclamate le favole, le menzogne, le false dottrine, non si deve dire amen, bisogna gridare, così non sia. È ora veramente di gridare in faccia a questi impostori, così non sia, perché veramente hanno stancato. Ma badate bene, non è che hanno stancato me, perché sapete io che cosa sono, sono polvere e cenere. Hanno stancato Dio, perché veramente dal pulpito ingannano le anime. Perché in queste comunità, d'altronde lo sappiamo bene, ci sono anche dei figlioli di Dio, che poi però il Signore chiama fuori, li fa uscire da questi luoghi veramente dove vengono predicate un sacco di menzogne. Un sacco! Questi impostori che si presentano come apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti, apostoli. Apostoli. Apostoli significa mandati, ma mandati da chi? Ma certamente non da Dio, perché gli uomini che vengono mandati da Dio predicano l'Evangelo, non predicano un altro Vangelo, non predicano un'altra dottrina, ma predicano e insegnano la sana dottrina. Ma che apostoli, apostoli? Questi qua sono dei falsi apostoli, che stanno lì veramente dalla mattina alla sera per dire a seduca le anime, con dolce lusinghiero. Parlare, seducono il cuore dei semplici. Sì, sì, proprio così. E dunque costoro rigettano l'idea di un Dio vendicatore. Ma Dio amore! Noi crediamo in un Dio d'amore. E perché noi in cosa crediamo? Noi crediamo nell'Iddio d'amore. Ma l'Iddio d'amore è anche l'Iddio delle vendette! È anche l'Iddio che vendica! Questo non vi piace. Vi piace solo sentire dire che Dio è l'Iddio d'amore. Siamo d'accordo che Dio è l'Iddio d'amore? Dio è amore. Ma Dio è anche un fuoco consumante. Dio è anche un vendicatore che si vendica dei suoi avversari. Ah, ma noi non crediamo che Dio manda i terremoti, le pestilenze, le carestie, manda le afflizioni. È perché voi non credete nell'Iddio vivente vero. Voi non credete nel solo vero Dio. Voi credete nell'Iddio della massoneria. In quello credete. Nel Dio della massoneria, che loro chiamano grande architetto dell'universo, il Gadu. Il Gadu. Voi siete servitori del Gadu. Del grande architetto dell'universo, così lo chiamano i massoni, il loro Dio, davanti al quale giurano, a cui loro rivolgono le loro invocazioni. Ecco, quello è un Dio che, lo dicono loro, è un Dio buono, è un Dio che non punisce, non castiga, che non si adira, nemmeno si adira il Dio dei massoni. I massoni si arrabbiano, ma il loro Dio no. I massoni si vendicano, però il loro Dio non è un vendicatore, così ce lo presentano, però i massoni sono vendicatori, è come se sono dei vendicatori, male per male, anzi, anche diciamo male per bene rendono. E allora, vi stavo dicendo, il loro Dio qual è? Non è l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma è il Dio della massoneria, che appunto non manda la siccità, non manda alluvioni, non manda terremoti, non manda i fulmini contro i suoi avversari. No, quando mai i fulmini? Appena sentono dire che Dio manda i fulmini, come dice la scrittura, se si riempie le mani di fulmini e li lancia contro i suoi avversari, questi si arrabbiano, ti guardano in una maniera, poi ti dicono di quelle parole. Ma questo non è il nostro Dio, ma lo so che non è il vostro Dio, lo so bene, voi lo ribadite perché è così, il vostro Dio è un altro Dio, non è l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è l'Iddio dei massoni. Perché? Perché voi siete dei massoni, voi non siete dei servitori dell'Iddio vivente e vero, voi siete servitori del Gadu, sì, e quindi proclamate il vostro Gadu, e il vostro Gadu non manda terremoti, no, quando mai, ma l'Iddio vivente e vero, sì, perché per l'ira sua trema la terra. Che poi io ho notato che questi qua che stanno continuamente a dire noi crediamo in un Dio d'amore sono di una malvagità che chi li conosce scappa quando li conosce, appena li conosci li eviti perché sono malvagi, loro sì sono vendicatori, rendono male per male. Rendono, vi ho detto, male per bene, sono di una malvagità. Però quando salgono sul pulpito poi dicono, noi crediamo in un Dio d'amore. E loro l'amore di Dio non ce l'hanno, per loro hanno l'amore per la menzogna. Ma quale amore di Dio c'hanno questi? C'hanno l'amore per la menzogna. Chi li conosce nella loro vita privata, già le menzogne le dicono dai pulpiti, ma nella loro vita privata menzogne su menzogne dicono. Per loro dire le menzogne è come respirare. Non possono farne a meno. E poi ci vengono a fare dal pulpito sta sorta di morale. Continuate a dire comunque che appunto il vostro Dio non è l'Iddio che manda i terremoti, perché così confermate quello che noi andiamo dicendo, che il vostro Dio non è il solo vero Dio. Ebbene, l'Iddio della massoneria di cui parlano questi impostori, non si adira, non si vendica, e quindi, sapete, quando si parla con questa gente, quando capita di parlare con questa gente, proprio non ci si capisce, non ci si intende, perché questi qua non lo conoscono il Signore. Ma chi conosce Dio, invece, Dio che è amore, sa che quello che vi sto dicendo è la verità, perché è scritto, così è scritto. La parola di Dio è proceduta da Dio. Non da me, ma da Dio, e quindi io proclamo la parola di Dio. Voi non ascoltate la parola di Dio perché non siete da Dio, ma è semplice. Gesù l'ha detto, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò, perché voi non le ascoltate? Perché voi non siete da Dio. Oramai l'abbiamo scoperto, l'hanno scoperto in tanti. Ecco perché vi stanno lasciando i locali vuoti. Perché hanno capito che voi non siete servi dell'Iddio vivente e vero, siete servi dell'Iddio della massoneria. Ebbene, fratelli nel Signore, quelli sono giorni di vendetta. L'ha detto Gesù, e furono giorni di vendetta. Le cose che disse Gesù si adempirono letteralmente. A proposito, state attenti, perché i soliti noti... o magari in alcuni casi i soliti ignoti, perché si mascherano i massoni, si nascondono, si sono inventati questa, diciamo, diavoleria, perché voi sapete, si inventano delle diavolerie a più non posso. Allora, si sono inventati questa diavoleria contro, appunto, Gesù. Questi se ne sono inventati tanti diavolerie, però questa qui, diciamo, adesso colgo l'occasione per dirvela. Praticamente dicono che queste parole di Gesù, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, Allora, praticamente Gesù non le ha mai proferite. Come diranno qualcuno? Ma veramente? Sì, sì, ci sono tanti libri scritti da masse evangelici, va, chiamiamoli così, che praticamente sostengono che queste parole Gesù non le avrebbe mai dette. Allora qualcuno dirà, ma come mai Luca allora le ha messe? E che volete? Luca praticamente, e cosa ha fatto il medico di letto, che era anche collaboratore dell'Apostolo Paolo, si è inventato queste parole. Si è inventato queste parole e le ha messe in bocca a Gesù. Ed ecco che appunto le ha inserite appunto in questo contesto, in questo discorso fatto da Gesù. Avete capito? Avete capito allora che cosa riescono veramente a inventarsi i massoni? Per quello noi vi diciamo, guardate che i massoni sono figli del diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. Quindi state attenti, perché i massoni dicono, ma no, ma non può essere. Ma non può essere che Gesù abbia detto queste parole. No, ma queste parole gliel'hanno messe in bocca dopo tanto tempo. Eh? Capito? Ma lui non le ha mai preferite. Bugiardi. Veramente, disse bene Gesù a quei giudei, voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre. Volete fare i desideri del padre vostro? Sì, sì, e io dico la stessa cosa ai massoni. Voi siete progenie del diavolo, voi che ragionate in questa maniera. Allora, fratelli nel Signore, queste parole di Gesù si sono adempiute nell'anno 70 dopo Cristo, quindi in quel secolo, nel primo secolo dopo Cristo. Si sono adempiute letteralmente perché sono parole di Dio. Sono parola di Dio e Dio ha vigilato sulla sua parola per mandarla ad effetto. Il Dio conferma la parola del suo servo. E Dio confermò la parola del suo santo servitore Gesù, mandando ad effetto questa predizione, che voi avete notato è piuttosto particolareggiata. Ci sono, diciamo, diversi dettagli che appunto concernono la distruzione di Gerusalemme. E allora vi voglio parlare dell'adempimento di queste parole di Gesù, perché so che ci sono molti credenti che non sanno, diciamo, poi oltre quello che sta scritto, non sanno poi come, diciamo, sono andate le cose. Allora io voglio farvi un piccolo riassunto affidandomi alla testimonianza di alcuni storici. Quindi quello che io vi sto per citare non è citato dalla Bibbia, da nessun libro della Bibbia, ma praticamente sono parole dette da alcuni storici che appunto concernono la distruzione di Gerusalemme avvenuta nell'anno 70. Allora, voi sapete che Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Voi ci credete a questo perché voi credete in Dio. Avete la fede degli eletti di Dio. Coloro che hanno la fede degli eletti di Dio credono fermamente che quando Dio parla, poi manda ad effetto la sua parola. Ed il Signore è meraviglioso quando manda ad effetto la sua parola. Perché veramente nessuno può resistere alla sua volontà. Quello che ha detto è innanzi determinato da Dio, così si adempie, come Dio l'ha preannunziato. Allora, diciamo, Giuseppe Flavio visse nel primo secolo, diciamo, dopo Cristo, era ebreo di discendenza sacerdotale, che praticamente durante la rivolta che scoppiò in Galilea contro i Romani nel 66 dopo Cristo, perché praticamente dovete sapere che la distruzione di Gerusalemme fu preceduta appunto da una rivolta degli ebrei contro gli invasori romani. Questa, diciamo, rivolta scoppiò nel 66, nel 66, ricordatevelo questo, nell'anno 66. E diciamo è stata questa rivolta è stata, come si dice, raccontata con molti particolari, devo dire, da questo storico chiamato Giuseppe Flavio, che durante la rivolta che scoppiò in Galilea, rivolta che poi si diciamo trasferì in Giudea e quindi poi a Gerusalemme, si andò ad arrendere ai soldati romani, che allora, cioè quando lui si arrese ai soldati romani, erano capeggiati da Vespasiano, Vespasiano, generale romano, che era stato mandato dall'imperatore Nerone a sedare la rivolta giudaica, perché si parla appunto della rivolta, la rivolta giudaica. Allora, le cose che dice Giuseppe Flavio sono scritte nel suo libro, che praticamente tutti gli storici conoscono, chiamato La guerra giudaica. È un libro che io ho già, diciamo, raccomandato di leggere ai fratelli, semplicemente perché in questo libro è trascritta la distruzione di Gerusalemme, diciamo, preceduta dalla rivolta, da una rivolta. Che poi, appunto, una rivolta contro i romani che chiaramente ebbe una scintilla, perché voi sapete che tutte le guerre che scoppiano, le rivolte, praticamente, diciamo, hanno sempre una scintilla che poi le genera, da cui partono le rivolte e le guerre. Allora, secondo il racconto di Giuseppe Flavio, la scintilla che fece scoppiare la rivolta giudaica e portò alla guerra contro Roma fu il prelevamento da parte di Gessio Floro, il procuratore della Giudea, di 17 talenti dal tesoro sacro, usando come pretesto le esigenze di Cesare. E praticamente fu da lì che, diciamo, si susseguirono diversi eventi che poi portarono la rivolta a Gerusalemme. Allora, a Gerusalemme, per sedare la rivolta e per quindi punire gli ebrei che si erano rivoltati contro l'imperatore, fu mandato il generale Tito, Tito, figlio di Vespasiano. Allora, questo, diciamo, è importante naturalmente, perché dobbiamo sapere chi fu il generale di cui Dio si usò per esercitare la sua vendetta su Gerusalemme. A proposito di questa vendetta, prima di proseguire diciamo, il resoconto, a proposito diciamo di questa vendetta, voglio leggervi alcune parole scritte in Matteo, perché Gesù predisse quello che poi avvenne nell'anno 70, ma diciamo, considerate che nell'anno 70 fu punita dai romani Gerusalemme, però la rivolta fu sedata anche al nord di Israele, quindi anche in Galilea. Quindi praticamente la rivolta giudaica si concentrò poi su Gerusalemme, però praticamente si era estesa anche alla Galilea, alla provincia della Galilea. E anche lì, quando furono mandate, diciamo, le legioni romane, anche lì, diciamo, che fu sedata col sangue, nel senso che ci furono veramente tantissimi ebrei che furono uccisi dai romani, perché sapete, i romani erano conosciuti per la loro spietatezza. Ricordiamoci che l'impero romano fu un impero molto potente, ancora oggi molti lo studiano le guerre delle legioni romane che portarono appunto questo impero a diventare così esteso e così potente. Quindi dovete considerare, quando si parla della distruzione di Gerusalemme, che non è che, diciamo, i romani sterminarono ebrei solamente a Gerusalemme. Diciamo che di questa rivolta giudaica si ricorda in maniera particolare quello che i romani fecero a Gerusalemme, però vi ricordo che i romani uccisero anche tanti ebrei, diciamo, in Galilea. Allora, nel capitolo 23 di Matteo, Gesù, nel diciamo, riprendere duramente i scribi e farisei, disse loro queste parole. Guai a voi, capitolo 23, versetto 29, guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti, adornate le tombe dei giusti e dite, se fossimo stati ai dì dei nostri padri non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti, talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti. E voi? Colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della genna? Perciò, ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce. Altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e lì perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Ora, queste parole le dovete tenere bene a mente, perché quando poi leggerete da voi stessi la guerra giudaica, quando arriverete a leggere quello che fecero i romani a Gerusalemme, vi renderete conto di quanto la vendetta di Dio sia terribile sui suoi avversari. Notate, notate cosa ha detto Gesù. Venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra. Avete capito? Ecco, quindi cosa significa che Dio vendica il sangue dei giusti? Ah, talvolta arriva la vendetta dopo tanto tempo, ma arriva! Arriva! E quando arriva la vendetta di Dio, è terribile. È la storia, il resoconto della distruzione di Gerusalemme che fa Giuseppe Flavio, lo attesta. Fu una vendetta terribile, ma giusta, badate bene, giusta, dove veramente si vede in questo resoconto l'adempimento delle parole di Gesù. Ma d'altronde Gesù cosa gli disse? Io vi mando dei profeti, dei savi e degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete, metterete in croce, altri ne flagellerete nella vostra sinagoga e li perseguiterete di città in città. Avete visto? Che cosa hanno fatto gli ebrei? Che cosa hanno fatto gli ebrei? Dopo aver ucciso i profeti che preannunziarono la venuta del giusto, che cosa hanno fatto poi? Hanno perseguitato naturalmente quelli che Gesù ha mandato loro. Che ha mandato agli ebrei. Guardate, guardate, però vedete, il Dio è giusto e fa giustizia ad ognuno. E allora, torniamo appunto a questo resoconto. Allora, praticamente l'esercito romano era stato mandato da Nerone, per sedare la rivolta ebraica, perché da Nerone quello che fece incendiare Roma e che poi, così dicono i storici, che dette la colpa ai cristiani, L'imperatore Nerone, un uomo malvagio, estremamente malvagio, mandò un forte esercito per sedare la rivolta ebraica e a capo di questo esercito ci mise il generale Vespasiano. Allora, l'esercito romano conquistò le città della Galilea che si erano ribellate, uccidendo in tutto migliaia di persone. Tacito, un altro diciamo storico, a riguardo di queste vittorie dice in un suo scritto: Vespasiano colà spedito da Nerone, mercè la fortuna, la propria rinomanza ed eccellenti cooperatori, nello spazio di due stati riusciva a occupare con le vittorie del suo esercito l'intero territorio e tutte le città della Palestina, fuorché Gerusalemme. La rivolta però, come vi ho detto prima, dalla Galilea si trasferì a Gerusalemme. Capite? Allora Vespasiano mandò suo figlio Tito contro questa città. E Vespasiano effettivamente, benché incitato da dei comandanti a lanciarsi contro Gerusalemme, diciamo non volle farlo, perché non ritenne opportuno attaccare Gerusalemme in quel momento. Allora, che cosa successe? Che intanto Vespasiano fu eletto per poi acclamazione imperatore dai soldati e dai comandanti, e allora ecco che, diventato imperatore, Vespasiano mandò Tito contro Gerusalemme. E allora lì naturalmente poi parte questo racconto, diciamo, di questo assedio della città di Gerusalemme. Un assedio peraltro che costò, diciamo, a Roma tanti e tanti soldati. Non pensate che, non è che, diciamo, Tito arrivò e prese la città, diciamo, in pochissimo tempo. No, perché l'assedio, da quello che poi appunto si evince studiandolo, è l'assedio praticamente durò alcuni mesi, capite? Alcuni mesi. E dunque ci fu questo assedio. Tito circondò la città di Gerusalemme con i suoi soldati, per diversi mesi assediò la città, fino a che poi appunto entrò in Gerusalemme, con tanta fatica bisogna dire, e conquistò appunto Gerusalemme. Allora, prima la conquistano e poi per ordine di Tito la demoliscono, per preparare così la strada all'avanzata dell'esercito. Chiaramente quando fu presa la città, la fame era tanta nella città, ma tanta. Addirittura fu così, diciamo, enorme la fame che viene raccontato che una donna uccise il suo figliolo e se ne cibò, cioè si mangiò la carne. E quando questa notizia arrivò a Tito, lui si protestò innocente davanti a Dio, affermando che da parte sua egli aveva offerto ai giudei la pace, l'autonomia e l'amnistia di tutti gli atti di ribellione, ma essi avevano preferito la sedizione all'accordo, la guerra alla pace. Poi, interessante questo, diciamo, che appunto ci viene detto, Tito tenne un consiglio di guerra in cui fece presente ai comandanti che egli non avrebbe mai distrutto col fuoco il Tempio di Gerusalemme, perché ciò avrebbe costituito una perdita per i romani. Quindi, a quanto pare, Tito non aveva intenzione di distruggere il Tempio di Gerusalemme, che era veramente una delle meraviglie di quel tempo, che vi ricordo Erode il Grande aveva fatto abbellire, un abbellimento, diciamo, un rinnovamento che era durato veramente molti, molti anni. E il Tempio di Gerusalemme era splendido, maestoso, da lontano, quando arrivavano i visitatori a Gerusalemme, da lontano contemplavano veramente questo, diciamo, Tempio, considerate. Infatti vi ricordate che gli stessi discepoli, diciamo, contemplavano praticamente le pietre del Tempio, la maestosità di questo Tempio, si evince dalle sacre scritture. Ma quando alla fine ci fu l'assalto finale dalla parte del Tempio, avvenne qualcosa. Cioè, i soldati romani si spinsero fino al Tempio dove avvenne questo fatto. Questo fatto viene appunto raccontato dallo storico Giuseppe Flavio. È interessante il racconto che fa adesso di questo fatto, perché conferma che quello che Dio ha decretato, quello avviene, anche se qualcuno può non essere d'accordo, però quella cosa avviene. Ascoltate che cosa dice che cosa dice Giuseppe Flavio. Uno dei soldati, né aspettando l'ordine né paventando per si fatta impresa, ma piuttosto spinto da un certo impulso soprannaturale, afferra un po' di legno acceso e sollevato da un commilitone, getta il fuoco dentro una finestra dorata attraverso la quale si accedeva alle stanze attorno al santuario, dal lato settentrionale. Questo è quello che dice Giuseppe Flavio. Ora, quando questa notizia giunse al generale Tito, che lui si trovava nella tenda a riposarsi, cosa fece lui? Corse verso il santuario, verso il tempio, e gridò e fece segno ai combattenti di spegnere il fuoco. Ma la confusione era così grande che quelli non udirono la sua voce e non fecero caso ai suoi segni. Intanto le fiamme si propagarono dappertutto nel tempio, che sotto gli occhi di tutti veniva consumato dal fuoco. E dice Giuseppe Flavio a questo punto: così dunque il santuario contro il volere di Cesare fu incendiato. Ora, ci sono alcuni che ritengono che Giuseppe Flavio qui difenda Tito dicendo una cosa non vera. Ora, noi chiaramente non possiamo essere sicuri che quello che al 100% diciamo che quello che dice Giuseppe Flavio diciamo sia la verità. Però non abbiamo, diciamo, delle prove che smentiscono Giuseppe Flavio, questo è il punto. Perciò riteniamo per buono quello per vero quello che dice Giuseppe Flavio. E questo ci conferma che quello che Dio ha decretato, quello avviene. Perché Dio, tramite Gesù, aveva preannunziato la distruzione del Tempio. Vi ricordate? Ricordiamole queste parole, perché noi diamo sempre gloria a Dio. Perché furono i Romani, gli strumenti di cui Dio si usò per distruggere il Tempio a Gerusalemme. Allora Gesù disse queste parole, disse così: le vedete tutte queste cose? Non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. Ed effettivamente non fu lasciata pietra sopra pietra. Ora, mentre il tempio bruciava, ci fu anche una strage da parte dei Romani. E qui dice Giuseppe Flavio queste parole testuali: giù per i gradini del santuario il sangue scorreva in abbondanza e vi rotolavano all'ingiù i cadaveri di coloro che erano stati uccisi al di sopra. Poi prosegue dicendo: non si ebbe né compassione per età né riverenza per dignità, bensì tanto i fanciulli quanto i vecchi, tanto i laici quanto i sacerdoti furono indistintamente trucidati, e la guerra recinse e travolse ogni classe, sia che implorassero pietà, sia che facessero resistenza. Allora, parole dure, lo so, però crude, però, fratelli del Signore, fu terribile la vendetta di Dio su Gerusalemme. Lo disse Gesù, quelli sono giorni di vendetta. Quando il Signore parla, fratelli nel Signore, crediamo sempre a quello che il Signore dice. Il Signore dice la verità. Allora, i Romani, giudicando inutile risparmiare le costruzioni circostanti, il Tempio, danno fuoco pure ad esse. Rimaneva ancora superstite il portico del Tempio esterno, su cui si erano rifugiate migliaia di persone, tra cui anche donne e bambini. E allora i soldati romani, spinti dall'odio, dettero fuoco anche a quel portico. E così tutte quelle anime perirono, chi nel fuoco, chi buttandosi giù per scampare alle fiamme del fuoco. Capite, fratelli del Signore? Allora, proseguiamo con la descrizione della distruzione di Gerusalemme. Allora Tito, il generale Tito, dette poi ordine di incendiare e saccheggiare la città. Così Gerusalemme fu incendiata e tantissimi suoi abitanti massacrati. Ricordate cosa disse Gesù? Cadranno sotto il taglio della spada. Terribile, così fu. La città fu presa, era caduta, praticamente, cadde praticamente interamente nelle mani dei romani, dopo aver resistito in maniera caparbia ai romani. Naturalmente i romani si rallegrarono molto, la loro gioia fu grande, perché così avviene in ogni guerra, quando naturalmente una città assediata per mesi poi viene presa, è chiaro che i soldati gioiscono. Le guerre sono tutte uguali. E naturalmente il dolore dei giudei fu enorme, perché chiaramente videro la loro città presa e distrutta. A questo punto, ecco, voglio citare alcune parole, altre parole di Giuseppe Flavio, che ritengo interessanti, è giusto che voi le conosciate. Allora dice che quando Tito entrò nella città, Giuseppe Flavio dice queste parole, ascoltate, riferendosi a Tito, ammirò la città sia per le altre sue fortificazioni, sia specialmente per le torri, che i tiranni stoltamente avevano abbandonate. Osservando egli infatti l'altezza della loro massicciata, la grandezza di ciascun macigno, l'accuratezza delle congiunture, e come fossero ampie ed elevate, davvero, esclamò, abbiamo fatto la guerra con l'aiuto di Dio, e fu Dio colui che da queste fortezze tirò abbasso i giudei. Poiché mani di uomini o macchine, che cosa possono contro queste torri? Capito allora? Cioè, praticamente, il generale Tito, in base alle parole di Giuseppe Flavio, riconobbe di avere fatto quella guerra con l'aiuto di Dio. Certo, Tito non lo conosceva il Dio, però riconobbe che aveva ricevuto aiuto dall'alto. Quindi lui, praticamente, Tito, riconobbe di avere sconfitto i giudei con l'aiuto che viene da Dio. Allora, quanti morirono durante la ribellione? Quanti ebrei morirono? Allora, Giuseppe Flavio dice che il numero complessivo dei morti dall'inizio alla fine dell'assedio fu di 1.100.000, ripeto, 1.100.000. E lui dà anche la spiegazione, no, di questo numero alto. Lui praticamente dice che questo alto numero di morti fu perché molti erano confluiti alla festa degli azimi, cioè alla festa di Pasqua, e all'improvviso erano rimasti presi dentro dalla guerra. Allora, le parole sue sono queste, di Giuseppe Flavio. In quel tempo, dunque, l'intera nazione era stata rinchiusa dal destino come dentro una prigione, e la guerra prese in mezzo la città zeppa di gente, così la moltitudine delle vittime superò quella di qualunque strage, umana o soprannaturale. Avete capito, quindi? Lui lo chiama il destino qua. L'intera nazione era stata rinchiusa dal destino. È chiaro che noi sappiamo che tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, e fu Dio a far sì che, diciamo, in quel periodo, in Gerusalemme si trovasse tutta quella moltitudine. Ora, voglio ricordarvi che in questo assedio non perì nessun nostro fratello, e questo bisogna dirlo. Perché? Sapete perché? Perché i nostri fratelli ubbidirono a quello che Gesù gli aveva detto. Cosa aveva detto Gesù? L'abbiamo letto prima. Quelli che sono in Giudea fuggono ai monti. Quelli che sono nella città se ne partano, e quelli che sono nella campagna non entrino in lei. Questo Gesù disse a loro di farlo quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti. Capite? Allora, vedete, il prendere alla lettera le parole di Gesù fa sempre bene. Fa sempre bene. E infatti nessuno perì. Nessuno perì. E questo gli storici lo riconoscono. Grande è il Signore, vedete il Signore come opera a favore della sua Chiesa. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggono ai monti, e quelli che sono nella città se ne partono, e quelli che sono per la campagna non entrano in lei. Quindi i nostri fratelli, gli antichi discepoli di Gerusalemme, che nell'anno 70 erano ancora in vita, o comunque quelli che erano in vita, si ricordarono di queste parole di Gesù, che gli apostoli avevano sentite, quindi queste parole gli apostoli le trasmettevano, e ubbidirono tutti, fratelli del Signore, gli apostoli che in quel tempo erano a Gerusalemme. È chiaro che, riferirono queste parole di Gesù, e ubbidirono tutti i discepoli del nostro Signore, tutti i credenti, tutti. Infatti non ne perì uno nell'assedio, non ne perì uno. Quanto è buono il Signore, ma quanto è saggio ubbidire al Signore. Allora, abbiamo visto, quanti perirono, 1.100.000, sono tanti, sono tanti. Poi molti furono fatti prigionieri, secondo Giuseppe Flavio il numero fu di 97.000, Poi di questi alcuni, i giovani più belli e alti di statura, vennero messi da parte per la sfilata trionfale a Roma, che ci fu. Altri furono mandati in catene ai lavori forzati in Egitto, altri ancora furono mandati in dono alle varie province a dare spettacolo nei teatri morendo di spada o dilaniati dalle belve feroci, ed infine altri furono venduti come schiavi. Avete capito? Cosa disse Gesù? Saranno menati in cattività fra tutte le genti. E queste, anche queste parole si sono adempiute. Quindi, una volta che l'assedio fu terminato, vi ricordo durò alcuni mesi, Tito diede l'ordine di abbattere tutta la città e il santuario, lasciando quelle torri che superavano per altezza le altre. E quella parte del muro, dice Giuseppe Flavio, che ricingeva la città d'Occidente. Poi voglio proseguire quando dice: questo affinché servisse da accampamento alla guarnigione che vi sarebbe stata lasciata, le torri invece affinché segnalassero ai postri quale e in che modo fortificata fosse la città su cui era prevalso il valore dei Romani. Gli abbattitori pertanto livellarono tutto il resto del recinto della città in maniera tale da non lasciare a quei che vi giungessero alcun argomento per credere che quel posto in qualche tempo fosse stato abitato. Questa dunque fu la fine che l'insensatezza degli innovatori arrecò a Gerusalemme, città illustre e presso tutti gli uomini famosa. Queste sono parole di Giuseppe Flavio. Allora, poi naturalmente Tito tornò a Roma, fu accolto trionfalmente e non molti giorni dopo il suo arrivo si tenne appunto questa sfilata trionfale per celebrare la vittoria sui giudei. In questa sfilata furono anche portati gli oggetti presi nel Tempio di Gerusalemme. C'è una tavola d'oro e un candelabro d'oro a sette braccia ed anche una copia della legge dei giudei. Il corteo terminò al tempio di Giove Capitolino e qui fu giustiziato, cioè fu ucciso, uno dei ribelli della rivolta ebraica. Naturalmente la città di Roma festeggiò, la vittoria sui giudei. E tenete presente che l'imperatore Vespasiano, per commemorare il trionfo romano, fece iscrivere sulle monete romane queste due parole, Judea capta, cioè la Giudea è conquistata. Poi dice, viene detto che Vespasiano introdusse il fiscus judaicus, cioè tassa che gli ebrei di tutto l'impero dovevano pagare ad uno speciale dipartimento del tesoro imperiale, appunto si chiamava il fiscus judaicus. Poi Vespasiano ordinò di ricercare tutti i discendenti della tribù di Davide perché tra i giudei non rimanesse più nessuno di stirpe reale. Per questo motivo si abbatté sui giudei un'altra gravissima persecuzione. Queste sono parole tratte dal famoso libro di Eusebio dal titolo Storia Ecclesiastica, libro terzo, paragrafo 12. Anche sì, questo libro ha dei particolari, diciamo, su quello che avvenne a Gerusalemme e in seguito anche alla distruzione di Gerusalemme. A Roma, poi, per commemorare la vittoria romana sugli ebrei, fu costruito un arco trionfale, che poi fu completato sotto l'impero di Domiziano, che è l'arco di Tito. E su questo arco si vedono dei soldati romani portare appunto i sacri cimeli, per cui il candelabro a sette braccia che si trovava nel Tempio. Chi è venuto a Roma o chi abita a Roma sa dov'è l'arco di Tito, il famoso arco di Tito, che naturalmente, chiaramente, agli ebrei di tutto il mondo, chiaramente soprattutto a quelli che abitano a Roma, perché là questi lo vedono sempre, gli ricorda appunto la disfatta degli ebrei nell'anno 70, la distruzione di Gerusalemme. Dunque, vedete, fratelli del Signore, queste cose è bene che si sappiano. È bene che si sappiano perché? Perché confermano le parole di Gesù. Quelli sono giorni di vendetta, finché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Infatti tutte le cose si adempirono. Allora, questo che cosa ci insegna tutto questo? Che Dio è giusto, fratelli. Il Dio ama la giustizia e Dio si usa anche di eserciti, diciamo, fatti di carne e ossa, di uomini fatti di carne e ossa, per esercitare i suoi giudizi contro città, nazioni, il Signore fa quello che vuole. In questo caso usò l'esercito romano per punire Gerusalemme. Vi ricordate quando i giudei gridarono a Pilato? Quelle parole che tanto danno fastidio ancora oggi agli ebrei. Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. Tutto il popolo disse queste parole: il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. E così avvenne. Quindi Gerusalemme nell'anno 70, diciamo, fu distrutta, dopo essere stata assediata per dei mesi, fu distrutta, e furono tanti coloro che appunto morirono durante questo assedio, diciamo, sia per fame e anche perché colpiti poi dai soldati romani, ci fu un massacro. Il Tempio fu distrutto ed è rimasto praticamente distrutto. Ci sono oggi delle pietre di quel Tempio che formano il muro del pianto a Gerusalemme, ma nel posto dove c'era il Tempio, la spianata del Tempio, voi sapete che ci sono due importanti moschee, diciamo, luoghi di culto della religione islamica. Voi sapete che ci sono alcuni gruppi di ultraortodossi che veramente sarebbero pronti proprio a farle saltare in aria. Perché? Perché ci vogliono ricostruire il Tempio, perché dicono lì c'era il Tempio e quindi lì noi dobbiamo ricostruire il Tempio. Però chiaramente ci sono queste due moschee che sono un intralcio e quindi ci sono questi ultraortodossi che vorrebbero distruggere. Però sanno anche che in questa eventualità, nel momento in cui dovessero far saltare in aria queste due due moschee, chiaramente tutto il mondo arabo si scatenerebbe una guerra contro Israele, già gliel'hanno detto, perché negli anni passati ci sono stati dei tentativi da parte di gruppi di ultraortodossi per far saltare in aria queste due moschee, però il governo è riuscito a sventare, il governo israeliano è riuscito a sventare questi, diciamo, attacchi terroristici, e quindi le moschee sono rimaste là. E naturalmente quando sono stati sventati, diciamo, questi attacchi, nel momento in cui sono stati, diciamo, resi noti, o comunque gli arabi l'hanno saputo, gli arabi hanno lanciato le loro minacce. Perché in particolare una di queste, intanto dovete considerare che Gerusalemme è una città santa non solo per gli ebrei, ma anche, diciamo, per i musulmani. Naturalmente ricordatevi che Gerusalemme è la città del grande re, è una città giudaica, ovvio questo, però la storia, diciamo, si è evoluta in una certa maniera, tant'è che oggi però Gerusalemme viene considerata città sacra anche dai musulmani. Perché? Perché lì a Gerusalemme, dove c'è una di queste moschee, si dice che da lì Maometto, il profeta dei musulmani, sia salito in cielo. Considerate quanto sia importante, dunque, quella spianata del Tempio per i musulmani, ma soprattutto, appunto, quella particolare moschea. Dunque, questo naturalmente per farvi capire che oggi il Tempio non c'è più là, e naturalmente noi sappiamo che sarà ricostruito. Noi sappiamo che a suo tempo poi il Tempio a Gerusalemme sarà ricostruito. Questo è bene sempre ricordarcelo. Quindi Dio ha fatto sì che fosse distrutto nell'anno 70, ma Dio farà sì anche a suo tempo che questo Tempio sia ricostruito, perché l'Anticristo, che deve essere manifestato prima del ritorno di Gesù, entrerà in questo Tempio. Eh sì, c'è scritto pure questo. Infatti c'è scritto al capitolo 2 del secondo Tessalonicesi che appunto l'Anticristo, l'uomo del peccato, figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che gli è Dio. Quindi il Tempio a Gerusalemme sarà ricostruito a suo tempo, e quando appunto sarà manifestato l'uomo del peccato, cioè l'Anticristo, egli si siederà nel Tempio mostrando se stesso e dicendo che gli è Dio. Quindi il Tempio sarà ricostruito. Ah, vi stavo dicendo. Allora qualcuno dirà, ma come? Allora questi ebrei ultraortodossi, pur sapendo che diciamo il Tempio, cioè se facessero saltare in aria quelle moschee, tutto il mondo arabo gli scatenerebbe una guerra terribile contro Israele, hanno cambiato idea? No, non hanno cambiato per niente idea, perché sono sempre pronti a far saltare in aria queste due moschee, tant'è che in mezzo agli ultraortodossi dicono, ma noi non siamo preoccupati, perché nel momento in cui faremo saltare, loro ragionano così, gli ebrei, e nel momento in cui faremo saltare queste moschee per ricostruire il Tempio, poi diciamo che il Messia verrà e naturalmente diciamo sconfiggerà i nostri nemici, praticamente ci libererà appunto dagli arabi. Diciamo questo un po' per riassumere brevemente un po' quale sia il pensiero di questi ebrei ultra ortodossi, che voi sapete che è l'ala più intransigente dell'ebraismo, perché ci sono, non tutti gli ebrei sono uguali, ci sono, diciamo, ebrei ortodossi, poi ci sono ebrei conservatori, ricostruzionisti, poi ci sono ebrei riformati, e insomma il mondo ebraico è veramente molto, molto vario, molto suddiviso, molto diviso. Comunque, vi ho voluto raccontare appunto la distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 per, diciamo, svariati motivi, ma uno di questi motivi è questo, cioè infondere in voi il timore di Dio, cioè perché Dio è santo, Dio è giusto, Dio è anche un fuoco consumante e va temuto. Noi dobbiamo temere il Dio, fratelli nel Signore. Dio è santo, è il nostro Dio, temiamolo, conduciamoci in maniera degna di Dio. perché Dio è un vendicatore. Lo abbiamo visto, la storia ce lo dice. La storia conferma quello che appunto dice la sacra scrittura. Quindi facciamo tesoro, diciamo, di questa vendetta che Dio esercitò su Gerusalemme e che fu predetta da Gesù Cristo, il figliolo di Dio. Facciamo tesoro e conserviamone sempre il ricordo per appunto temere il Signore Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità.